necessitare di storia. A Piazza Fontana, sì, qui c'è la Banca Nazionale dell'Agricoltura, è stata fatta esplodere una bomba, mi sembra, che ha causato 12 morti, un certo numero di feriti. E niente, poi sono state aperte, è stata aperta l'inchiesta e sono stati accusati dapprima, mi sembra, gli anarchici, poi alla fine è stato individuato invece qualche filone, qualche pista neofascista. E poi da lì sono scaturiti tutta un'altra serie di eventi che sono protratti per diversi anni, tensioni tra estrema destra e estrema sinistra, cose di questo genere. Ricordi meno male qualche altro evento? Qualche altro evento del 69? Ma è in Italia? Allora, si veniva dal 68, quindi l'anno prima c'era stata tutta l'epoca della contestazione, poi in generale periodo di formazione di movimenti, non lo so, tipo, penso che lotta continua e cose così siano formate in quegli anni. Attentati, ma mi ricordo che la destra faceva attentati di questo tipo, a sinistra cominciavano cose che poi negli anni successivi sarebbero intensificate, tipo rapimenti, sequestri, cose di questo tipo, però più precisamente non mi viene in mente. Chi è da Sazzetto? L'ho sentito, no, non saprei dire chi è. Valpreda è sempre uno dei presunti attentatori, ok. Pinelli è l'anarchico che dicono sia caduto dalla finestra, ma in realtà è difficile che insomma sia caduto da solo mentre era nella stanza. E cosa per cui poi è venuto fuori l'omicidio Calabresi, perché hanno accusato i Calabresi che era nella stanza di essere uno dei responsabili, insomma, di un certo atteggiamento dello Stato, penso, in generale.